avec des yeux d'opale, qui me fascinait, il y avait le val de son visage pâle, de femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revu un soir, aïe aïe aïe, ça fait déjà un fameux bail. Non sapendo più cosa inventarci. Quando la giornata dedicata a Giuseppe Sansone dobbiamo parlare del cinema italiano, questa mattina invece è venuta una fantastica idea. Intanto buongiorno Giuseppe Sansone. Buongiorno. Questa mattina abbiamo pensato di fornirvi una rassegna di film, alcuni un po' datati, probabilmente sfuggono alla memoria più vigile dei nostri ascoltatori, altri leggermente più recenti, in cui si manifestano personaggi che in realtà nulla avrebbero a che fare con il filo narrativo della storia, anche perché non sono attori. Sono personaggi che oggi rivediamo come protagonisti, ma soprattutto della scena politica, o perlomeno con una grande rilevanza nel dibattito politico. Personaggi che al tempo probabilmente, così un po' per facezia, un po' perché magari si vedevano in trattoria assieme con chi faceva il film, un po' perché come divertimento, un po' come sfida, o un po' altre volte come un subliminale ribadire la loro presenza politica, e vi diremo anche in che occasione, prestarono la loro faccia al cinema. Al tempo fece abbastanza scalpore, faceva relativo scalpore, ma riascoltarli oggi, risentirli oggi probabilmente vi do un'impressione diversa. È questo il senso della mattina che noi abbiamo lungamente meditato e pensato negli ultimi 10 minuti? Sì, sono apparizioni aliene che provengono dai mondi, dagli ambiti più disparati, dallo sport, dalla politica, però come vedremo sono fortemente connotati e forse reinventati, avrebbero avuto anche una larga possibilità di carriera nel mondo del cinema. Facciamo subito un primo fulminante esempio, senza dire bene il personaggio. Diamo il contesto. Che film è e il contesto qual è la trama? Il film è Azzurri di Eugenio Masciari dell'84. È un film di fantapolitica che racconta di questo giornalista che tiene in ostaggio in uno studio televisivo un onorevole perché gli hanno bloccato un'inchiesta, lo hanno licenziato al giornale a seguito di un'inchiesta troppo scomoda su fondi neri. Quindi, che anno siamo? Scusami. Siamo nel 1984, siamo nei rutilanti anni 80 e questo film che non ha visto nessuno, è stato inghiottito nel nulla dopo la produzione ad opera di questo Eugenio Masciari che aveva collaborato con Nanni Loi. Però si inventa questo film e questo film sparisce nel nulla. In questo film si vede un personaggio oggi noto, oggi anzi all'onore delle cronache per una sua rentrée in televisione, che è Giuliano Ferrara. Il set è così descritto, adesso sentirete la voce, cioè Ferrara molto giovane rispetto alla sua visione di oggi, anche molto più magro, più asciutto come persona, che in un surreale tribunale o qualcosa del genere. Allora, uno studio televisivo, scena tanto ce l'aveva segnalata Luca Martera, poi è stata ripresa dall'Espresso, da Blob in questi giorni, però il primo a segnalarci è il nostro comune amico. Sì, grande segnalatore. E quindi c'è questo Ferrara che in realtà qui fa l'onorevole, ma sarebbe stato un magnifico Charles Laughton, un magnifico Enrico VIII con la sua barba setolosa, rossiccia, con questo physique du rôle già deformato, già molto ampio, e questi mutandoni da antico cavaliere medievale, quelli che si mettevano sotto le armature. Dobbiamo farlo capire, Ferrara è vestito, a un certo punto si tira giù i pantaloni, c'ha questi mutandoni che si usavano sotto la naia. Sentiamo la scena, poi la descriviamo meglio. Io ce l'ho un padrone, il mio padrone è il popolo che rappresento. In questo momento il mio padrone sono quei poveri innocenti che lei tiene sotto pericolo di morte. Per loro io sono un servo del popolo, il popolo è il mio padrone. Signor Questore, il popolo è il mio padrone. Cosa pensa? Che non ha il coraggio di tirarmi giù i pantaloni? Si tiri giù i pantaloni. Guardi che per salvare degli innocenti io mi tiro giù i pantaloni, faccio questo ed altro. Vuole sapere se sotto sono servo o padrone? Basta così o vuole che le faccia un balletto? E ora cosa vuole? Che mi faccia sculacciare dal questore? Mi sculacci, questore! Mi sculacci! Mi sculacci, lo faccia per quegli innocenti! Più forte, questore! Più forte! Sì! Più forte, bravo, sì, più forte. Ecco, la scena è questo pseudo questore con i baffoni, con la tipica faccia da questore dei film poliziotteschi, che seduto in questo set televisivo di tribunale in cui Ferrara subisce questo interrogatorio, Ferrara stira giù i pantaloni, fa un balletto, ha degli innocentissimi mutandoni, non si vede nulla, poi si mette prono sulle ginocchia al questore e si fa sculacciare. Si espone a questo spanking estremo. Simone. Questo, ricorda proprio veramente questi personaggi, cioè lui avrebbe dovuto fare quello forse, perché ha questo physique du rôle veramente da caratterista hitchcockiano, come Charles Laughton, che in questo magnifico film ricorda. Ricorda lo spot del suo programma televisivo Fortunato, proprio da lì a qualche anno, proprio metà degli anni, no, primi anni 90, in cui usciva da un cassonetto con il trucco da zombie, da vampiro, mangiando lische di pesce, sì, spazzatura. Incrocia bene il suino e il felino, riesce a dare queste due sfumature, insomma, attoriali, che sono molto importanti e che comunque gli danno spessore, oltre ad avere questo physique du rôle imponente che riempie l'inquadratura. 800 24 00 24, ricordate anche voi, potete segnalarci personaggi che nei film del passato, gli ultimi 10 anni 20 anni, hanno fatto capolino in maniera del tutto impropria, non c'entravano nulla con il film, ma probabilmente c'era una motivazione o c'era una sottile vena profetica per cui quel personaggio, che vediamo giovane e in tutt'altra collocazione, in tutt'altra accezione, poi sarà un personaggio centrale magari nella scena politica, come quello che stiamo per ascoltare. Buonasera, signor commissario. No, signora, buonasera, non sono un commissario, sono un giornalista. Ah, dottor Letta. Sì, sono un giornalista, avrei bisogno di telefonare al mio giornale, posso? Ma lei è il direttore del giornale Il Tempo? Sì. Permette che mi presenti, dottor Bonetti. Buonasera, molto detto. Io l'ho vista in televisione, lei nelle tavole rotonde è sempre il più acuto. È molto gentile, mi dà il suo soprabito. No, guarda che il dottor Letta è venuto solo per fare una telefonata urgente e va via subito. Fai un caffettino al dottor Letta. Ma perché vuole un caffè? Basta, un giornalista non rifiuta mai un caffè, signore. Prego, dottor Letta. Sì. Prego. Molto grazie. Prego. Una sigaretta, dottor Letta. Grazie. Prego. Sono il direttore, buonasera. Mi dà il redattore capo? Grazie. Dio mio, fallo sta zitto. Ecco, Gianni Letta, nelle vesti allora di giornalista, era il direttore del Tempo, anche lui giovanissimo, capelli pomatatissimi, ribadisce tutti i più sordidi luoghi comuni sul giornalista. Giornalista fa una vita dissoluta, sta la notte alzato per seguire la colata del piombo delle pagine del giornale, quindi vuole tanti caffè. Entra con il suo impermeabilino bianco a casa di Alberto Sordi per fare la telefonata al giornale. Allora un giornalista, per mandare un pezzo, deve dettarlo al telefono, non è che c'erano i telefoni cellulari, quindi usa il telefono di Alberto Sordi che, poi questo entriamo nella trama, interferisce con questa telefonata, dando poi elementi al cronista, al segugio Gianni Letta, per fare il suo pezzo con dei nuovi elementi. Che film si tratta? Il film si chiama Io so che tu sai che io so, dell'82, dello stesso Sordi, no? Quello che commuove di questa scena è l'assoluta pretestuosità, cioè, perché il film è in realtà una sorta di Tanizzalchi alla matriciana, in cui Sordi scopre che per un equivoco sua moglie è stata indagata da un investigatore privato, gli si trova in mano questi filmati che raccontano la vita segreta della moglie, poi scoprirà che la vittima è un amante. Ma in questa trama non c'entra nulla l'irruzione improvvisa, appunto, suonano alla porta ed entra Gianni Letta con la sua pettinatura arrabbiata, con la sua plomb quasi da androide, se vogliamo, e poi c'è tutto, lei è sempre il migliore delle tribune elettorali, c'è tutta questa devozione, cioè, c'è tutto il modo per dispiegare a Sordi tutta la sua, insomma, il suo servilismo. È interessante, perché vedi, allora probabilmente l'apparizione era legata, non so, a dinamiche che non possiamo nemmeno immaginare, imprescutabili, magari, sì, ma magari avevano dato una location in un luogo in cui il tempo era un importantissimo quotidiano, Letta era un grosso personaggio nel mondo del giornalismo romano, quindi questo passaggio che gratificava Letta e dava anche lustro al film, dava l'idea che si mischiasse la realtà fittizia con la realtà concreta. Sì, poi c'è anche Sandro Paternostro che fa se stesso in questo film, c'è Cesare Cadeo, insomma, lo steward per eccellenza, che fa è un reporter, quindi sono delle apparizioni, altre apparizioni aliene, questa è la più clamorosa del film, insomma. Oggi sui giornali si parla di Gianni Letta nella rosa dei futuri premier, presidenti del Consiglio, quindi è importante, divertente vedere comunque veniva proclamato in altro ruolo un personaggio che oggi è di spicco nel campo della politica. Andiamo avanti. Ma sì, il professore ha fatto una sciocchezza, ha venduto l'anima al diavolo per vincere il Giro d'Italia. L'anima al diavolo, capite? Lo dicevo io, l'avrei giurato. Al diavolo? Allora facciamo bene a ritirarsi. No, E perché? Perché da voi la gente aspetta una vittoria. Anche contro il diavolo. E voi quando volete, potete, perché siete capaci di tutto. E qui si tratta di salvare un'anima. Se si tratta di salvare un'anima, a questo ci penso io. Bravo Bartoli, sei un sant'uomo. Anch'io ci sto. Bravo Coppi. Per farlo al diavolo. Anche per farlo a te. No, dai, non litigate. Allora non vi ritirate, Si sente pessimamente, è un filmaccio, di cosa si tratta? Si sente, cioè, un film antico più che un filmaccio, perché questo è un capolavoro di Mattore, Totò al Giro d'Italia, dove c'è un Totò faustiano, un professore con barbetta che è innamorato di Isa Barzizza e vende l'anima a questo diavolo di seconda classe, questo diavolo goldoniano veneto, pur di e lei gli dice: se tu vuoi stare con me, se vuoi diventare mio marito, devi vincere il Giro d'Italia. E lui affronta gli eroi dell'epoca. In questo film ne incontra vari, incontra Coppi, Bartali e tutti i grandi ciclisti dell'epoca, incontra in un'apparizione anche Nuvolari. E questo è affascinante perché è un film del 48, un periodo in cui, appunto, pre-televisivo, in cui gli eroi dello sport, che all'epoca catalizzavano l'attenzione di tutto il paese, un sport importante come il ciclismo, ancora non erano prestati alla... erano figurine, immagini statiche, non li vedevi se non rappresentati nei giornali, e non erano avvezzi alla società dello spettacolo, quindi erano molto impacciati con queste parlate antiche, soprattutto erano trentenni che sembravano 57enni. C'è Bartali che ha poco più di 30 anni, e tra l'altro qui si fa riferimento mostra 70, si fa riferimento al fatto che lui può cambiare il corso degli eventi, perché nello stesso 48 Bartali salvò, evitò, una leggenda del tempo. Evitò la guerra civile dopo l'attentato di Pallante a Togliatti, accadeva questo proprio in quei giorni, nei giorni del film. Ci hanno fatto una fiction anche televisiva, c'è questa storia di Bartali, salvatore della patria. Dante, buongiorno. Buongiorno. Senta, volevo intervenire alla sua trasmissione perché mi è sembrato uno spunto abbastanza interessante, soprattutto perché io ho ricordo da bambino, insomma, di un filmetto, con Enrico Montesano che si chiama Come dura l'avventura, non so se lei lo ricorda. Sì, sì. Nel quale c'è Alessandra Mussolini. Ah, è vero, certo, sì, sì. Mussolini che sostanzialmente prodiga un buon costume, tra virgolette, vela di buon costume anche comportamenti stile Bunga Bunga. Sì. Anche perché lei in quel film, mai come in quel film... Però faceva l'attrice, poteva fare quello che voleva, non è che... era nel ruolo di attrice, perché a quel tempo era attrice, ancora non era dedita alla politica. L'equivoco che è stato dopo, insomma. Sì, però è simpatica come situazione, perché io in realtà ricordo Alessandra Mussolini primario, insomma, quello lì più... freudiano, primario. Perfetto, che è legata proprio a questa scena di lei da questi facili costumi, tra l'altro con un lui si insinua però facili costumi, tra l'altro non mi ricordo chi, se Enrico Montesano Verdone forse c'era nel film, che soffriva anche di impotenza, lei con questi suoi atteggiamenti, diciamo, un po' cura il problema, diciamo, risolve il problema. Sì, forse la sento particolarmente attizzato però a questo ricordo. Mi fa piacere che rimangano tracce così profonde di personaggi chiave della nostra politica. La prima polemica politica che ricordo tra Bassolino e Mussolini, sì, cambiati a sindaco nella nostra città. Gli fu rinfacciata questa scena. Fu una battuta di Bassolino che disse che lei era stata a letto con la metà dei suoi elettori. E poi che da questa donna si è creata, insomma... Perché non è una battuta molto felice, non è nemmeno molto galante, devo dire. Assolutamente, però le spiego come è nato, insomma, come queste contraddizioni della politica si possono... Uno potrebbe dire a un uomo: tu l'hai leccato all'altra metà, cioè non è bello comunque dirlo. Assolutamente, però le ripeto, io le faccio un discorso forse un po' personale. Sì, sì, lei la sente molto vicino, in quanto come napoletano a quel periodo era coinvolto anche emotivamente e civilmente in questa tensione. E poi nella politica sa, anche i colpi bassi sono giustificati, non è che ci vuole cavalleria, anche questo c'è da dire. Comunque lei si ricorda Alessandra Mussolini in questo film che era molto prodiga nel risolvere appunto il problema di inadeguatezza di Montesano, di Vertone, ricordiamo bene. Rilancio il tema allora. Noi abbiamo segnalato, stiamo segnalando, come ci fa l'ottimo Dante da Napoli, integrando il suo ricordo al nostro, che è ben più annebbiato, alcuni personaggi che oggi hanno una visibilità, una riconoscibilità nel campo ad esempio della politica, ma potrebbe essere anche in altri campi, che in certi film degli anni 70, 80, anche primi anni 90, siccome usava, erano infilati nelle trame e poco c'entravano. Alessandra Mussolini è stata ricordata all'ascoltatore in maniera però lievemente un po', perché faceva l'attrice, era il suo mestiere, al tempo faceva il mestiere. Invece accadono che altri personaggi che in realtà non erano per niente attori o personaggi di spettacolo, erano infilati in questi film. Massimiliano, chi si ricorda? Sì, pronto, buongiorno. Sono un vostro affezionato ascoltatore, mi scusi ma sono un po' emozionato, è la prima volta che intervengo a un programma radiofonico. Vabbè, non è mica una cosa capitale, sono sopravvissuti in tanti, ecco, posso dire questo. Grazie, volevo salutare il dottor Sanson, che apprezzo molto per i suoi interventi e la sua puntuale preparazione. Io volevo segnalare sempre un film di Alberto Sordi, di e con Alberto Sordi, Il Tassinaro, dove compare appunto in una sequenza l'onorevole Andreotti, e c'è un tra l'altro anche una nella stessa sequenza l'onorevole Andreotti parla di quelli che sono appunto, se non sbaglio, la politica universitaria, perché Sordi in quella circostanza parla del proprio figlio, che è appunto uno studente neolaureato. Ecco, lei che impressione fece vedere questa scena al tempo? Perché se ne parlo molto, io mi ricordo sui giornali si parlò Andreotti, protagonista di un film, era diciamo la scena clou, andavamo a vedere questo pessimo film orrendamente diretto da Alberto Sordi, che bisogna dire anche dei grandi personaggi, quelli che furono le loro zone d'ombra, Alberto Sordi con la regia proprio ci azzeccava poco, in realtà questo film era atroce. Questa scena, che è un lunghissimo interminabile piano sequenza, che girano attorno al Colosseo per mezz'ora, lei se la immagini per capire la portata? È Andreotti che fa un discorso politico, dice quello che vuole dire, totalmente politico, non giustificato, noiosissimo e pesantissimo dentro film. Si immagina oggi che accadesse qualcosa del genere, tipo esce un film, che ne so, con Berlusconi in tassì, con Verdone che guida e se la mena per mezz'ora. Sentiamo la scena perché vale la pena lo smarronamento di quanto sia noiosa e fastidiosa. Perché se il giovane economicamente stesse tranquillo, se il giovane avesse un'occupazione, non avrebbe bisogno di andare in giro a dare una botta in testa alla vecchia per 100.000 lire in più, capisci o non è? Questo è vero, ma però ecco, non si può pensare di avere una generazione intera o tante generazioni di pesi massimi e che tutti possono, se aiutati, sfondare, se portati fino a 30-35 anni senza preoccupazioni, poi dare loro un contributo eccezionale. Oppure bisogna fare un po' come in America. In America io ho visto per esempio una volta a San Francisco degli ingegneri che guidavano il tram e mi sono fermato a parlare con loro e mi hanno detto che c'era un anno di intervallo nei programmi della NASA, dell'Agenzia Spaziale, in quest'anno di intervallo stavano a guidare il tram e loro non lo consideravano poi una cosa così disdicevole. È giustissimo, lei dice, in America fanno i trambieri. Alberto Sordi si arruffiana in maniera orrenda esprimendo il suo referente politico di sempre. Sì, il suo referente. In realtà è un discorso politico, una sorta di è come quelle finte interviste che si fanno in periodo elettorale, in cui il grande giornalista fa delle domande mellifue, accomodanti e concordate con il politico di riferimento. Sì. E non faceva nemmeno ridere, non c'ha nulla da ridere, noiosissimo. E poi è un inserto particolarmente estremo, intollerabile, perché è lunghissimo. C'è cioè questa inquadratura fissa alternata con dei controcampi, un chroma key anni 40 con dietro che scorre questa via di fuori imperiali eterna, no? Perché come gli aver fatto pagare la parcella, quindi era un chiaro marchettone, diciamo marchettone, la verità. Sì. E con Andreotti che disdice questo suo aspetto nosferatesco con la solita voce rassicurante da nonno romano che si preoccupa di questi ragazzi universitari che dovranno inserirsi era uno spottone politico, ad Andreotti. Marco, buongiorno. Sono in linea? Certo. Buongiorno, volevo anch'io ricordare l'Andreotti passeggero del Sordi Tassinaro, ma l'avete appena fatto. Allora ricordo che Andreotti è anche stato protagonista di uno spot pubblicitario, credo l'unico uomo politico in Italia a essere protagonista di uno spot pubblicitario con Fiorello per la pubblicità di una compagnia telefonica, se non sbaglio, e anche lì faceva esattamente Andreotti. Sì, qualcosa del genere ricordo, adesso mi documento, poi glielo dico con più attenzione. Ma lei, rispetto alla scena del Tassinaro, che impressione ebbe al tempo? Perché allora se ne parlò con grande entusiasmo, potrebbe essere stato Andreotti come qualsiasi altro politico, però già esisteva una maniera, diciamo, di passaggio subliminale comunque di volti della politica attraverso quello che allora era il mezzo di propagazione più forte, perché poi il Tassinaro fu iper pubblicizzato in tutti i contenitori televisivi, quindi c'era un gioco incrociato e passava come questo aspetto umano del politico sempre piuttosto enigmatico, che però in realtà il problema è che non faceva ridere, doveva essere un film comico e non faceva ridere. Poi i soldi faceva il popolaresco, ma era arroccato in questa sua villa a Lambaradano, quindi non conosceva nulla in realtà forse della realtà che stava sì, cambiando. Sì, Marco, doveva aggiungere qualcosa? Ma che era la prima repubblica e i politici avevano poche occasioni al di fuori delle tribune elettorali. Sì. Adesso invece dilagano e quindi c'è meno esigenza di dare una versione non così inscatolata come era quella delle tribune elettorali di come si chiamava il grande Iader Iacobelli. Grande maestro Iacobelli. Sì, diciamo che guarda, c'è poca memoria storica su questo. Io ricordo che il periodo la guardavo la televisione e la osservavo con attenzione. A sdoganare il passaggio del politico in televisione fu proprio Raffaella Carrà. Fu la prima a avere proprio Andreotti sul suo salottino, ad avere Craxi, ad avere i grandi politici del tempo, della Prima Repubblica nel salottino. E fu la Carrà la grande mediatrice, attraverso importanti e faticosissime mediazioni, a portarli nel salottino e a sdoganare il fatto che il politico va in televisione soltanto nella tribuna. Cominciarono ad andare a parlare con Donatta, che parlò della sua chiesetta, cominciarono a portare il loro lato umano. Poi venne Funari e scombinò completamente tutti i parametri, infilando in bocca ai politici le fette di mortadella o i pezzi di mascarpone. Quello fu la vera rivoluzione. Sì. Ma la prima fu proprio la Carrà. Sì, quella di Funari era una cornice rablesiana, invece appunto loro che cominciarono a intuire in quel periodo che dicevi tu l'importanza di essere attori, l'importanza dell'attorialità, di entrare in uno spettacolo della politica. Si arrivò velocemente poi alle torte in faccia. 800 24 00 24, a tra un istante dopo le informazioni dalla borsa. Connu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. Questa occupazione deve essere preparata con la massima cura e precisione. Giovanni telefona domani alle 8:15 a scuola e blocca il telefono. La prima squadra entra dentro scuola e arriva fino al secondo piano. La seconda squadra, composta da Francesca, Andrea, Umberto, Carlo e Valentina, si ferma sul portone e spiega i motivi dell'occupazione. Adesso abbiamo fatto le squadre. Chi porta il pallone? Paura, pianto. Guarda, sono 5 anni che tento di occupare scuola. E adesso? Manca una settimana al piede. Ma tu, no, questa, e questo non c'è problema. Tra le tante sorprese che poi presenta questa sorta di archeologia alla ricerca delle pepite rappresentate da personaggi oggi noti nella cronaca, nell'attualità, abbiamo trovato, ma c'è stata anche segnalata da molti ascoltatori, questo Augusto Minzolini nel film Eccebombo di Nanni Moretti, che fa il leader dell'occupazione delle scuole. In realtà lo era veramente. Minzolini ai tempi del liceo era un acceso leader dell'estrema sinistra, quindi faceva ruolo di se stesso in Eccebombo. Oggi è il direttore del TG1, è diventato il bersaglio degli strali più accesi dell'opposizione, in quanto accusato di essere esageratamente filogovernativo. Giuseppe Sanson. Sì, qui lo vediamo chiomato, avvolto di marijuane varie, di banchi sconnessi dentro questa atmosfera scolastica, e oggi invece sembra il capo degli X-Men, una sorta di quelle figure di V for Vendetta, quelli dei sicari del potere. Insomma, c'è una metamorfosi, appunto, si cambia personaggio, si cambia maschera, è una sorta di antropologia molto italiana. È fantastico pensare che le tracce di un passato politico, di una militanza che oggi probabilmente risulterebbe un po' difficile in questi contesti, sia che per chi attacca Minzolini, sia per lui stesso, che poi è personaggio abbastanza scanzonato, lui se ne fregherebbe probabilmente, ma riemerge attraverso un film, non attraverso altra testimonianza che un film, che nella sua pretesa del tempo era di immobilizzare una realtà che non era sotto la luce dell'ufficiale maniera di fare film e di raccontare la realtà. Sì, Moretti descrive un milieu che era quello il suo, in cui poi affioreranno anche i vari Mughini, insomma, sì, erano i compagni di classe della sorella, erano il liceo, aveva una sorella un po' più piccola e usò come protagonisti dei suoi film fulminanti e fantastici, sì. Perché fu il primo veramente a lasciarci una traccia concreta e reale di quel mondo. Era un affresco corale di quella Roma, appunto gruppettare, di quella Roma contestatrice. Che divenne la Roma terrazzara, poi sì, la stessa tale quale si trasferì nelle terrazze ereditate dai genitori. Di mutamenti antropologici che basta guardare per registrare, insomma. Allora andiamo avanti, 800 24 00 24, iniziano le segnalazioni puntuali dei nostri ascoltatori. Francesco. Buongiorno Nicoletti, buongiorno anche a Sansone e agli ascoltatori. Io volevo segnalare un Michele Mirabella, vero sì uomo di spettacolo, ma oggi compassato e serio, oltre che brillante conduttore. Ah, certo, esperto in emorroidi e in prostata nella trasmissione dell'ISI. Colonoscopia. Sempre con grande però proprietà di linguaggio. Io lo vorrei vedere. Certi argomenti vanno trattati con proprietà. Il dottor Gargiulo, con molto tatto. Comunque con tatto e delicatezza, data la fattispecie. Con quanto di lattice. Certo. Io lo non ti allargare, Sansonna, tu devi fare l'esperto in cinema, non il battutista. Prendi. Certo. Io lo rammento in un film della saga fantoziana, credo il terzo, dove interpretava l'innocuo ragionier Fonelli, che dopo una serie di iscrizioni a logge massoniche, insomma, e come altre cose compromissorie, diviene direttore generale e si trasforma in persecutore dei suoi colleghi, nonché organizzatore di gare atletiche. E io rammento sempre che quando veniva dileggiato dai vari Galboni, Filini e dallo stesso Fantozzi, questi ultimi si producevano nel famosissimo lancio dello stronzo, cioè quando arrivava Fonelli che parlava di atletica in mezzo a una marea di impiegati appassionati italiani puri, appassionati di calcio, ecco, questi lo dileggiavano con il cosiddetto lancio dello stronzo. Ecco, io volevo ricordare immagine la licenza di parolaccia è dovuta alla opportunità e necessità filologica. Se si fa una ricostruzione storica bisogna farla, cioè, rigore innanzitutto. Ci vuole rigore innanzitutto. Poi le ricordo che Mirabella, perché lo conosco, perché era un mio collega della radio, nasce proprio come attore brillante. Mirabella era equiparabile a Arbore in quei tempi, era un profondo, divertentissimo attore raffinato, anche drammatico ma anche comico. Poi adesso ha cambiato negli ultimi 10 anni e fa il conduttore televisivo di argomenti colonoscientifici, cose del genere, però allora era un attore, quindi era nel suo pieno ruolo. Federico, invece? Buongiorno dottor Nicoletti, io volevo fare due citazioni. La prima già l'avete anticipata voi praticamente, si parla di Nanni Moretti dell'82, mi pare, Sogni d'oro, in cui c'è uno splendido Mughini che in uno scontro dialettico affronta proprio Moretti. Ah no, noi non l'abbiamo citato Mughini, abbiamo citato Minzolini. No, però... insomma, avevate citato Moretti, quindi volevo citare un altro film di Moretti, appunto. Allora, resti un attimo in ascolto. Sì. Siete pronti? Mi raccomando, mettiamocela tutta. Ora c'è un diverso atteggiamento da parte degli spettatori nei confronti del cinema, e questo per merito anche dei nostri film. Tanti nostri colleghi. Ma quali colleghi? Non ho colleghi io. In Italia sono l'unico tra i nuovi registi ad avere talento. Voi siete aridi, non sapete cos'è il cinema. Siete corrotti dal vostro desiderio di potere, desiderio ingiusto, dato che siete anche cretini. No. Tempo, arbitro, tempo! Non mi va. È l'unica arma che abbiamo. A stronzo, e fammena pippa, non vedi sto a burina ancora a parli, ma senta, reggi in piedi. Devo dire sì che... abbastanza impervio il cammino della ricostruzione per quello. Comunque Mughini qui appare anche lui nel suo ruolo, fa Mughini nel film di Moretti e continua a fare Mughini per tutta la sua esistenza. Sì, comunque con questi suoi occhiali un po' alla Vermuller, io me lo ricordo, non mi chiedere in che occasione, io vidi una retroscena di Controcampo, programma di Mediaset, in cui Mughini faceva appunto questo personaggio del mattatore, e lui con quei suoi occhiali, con i suoi vestiti un po' clowneschi, però un po' fra il dandy e il clown, si preparava ad entrare in scena in queste sorte di tribune molto accese, in cui si parlava di calcio col coltello fra i denti, si parlava come se fosse la Duse, no? Si è molto concentrato. Però ripeto, rispetto alla nostra premessa iniziale in cui c'era appunto Giuliano Ferrara, Gianni Letta e altri personaggi, Mughini era interno. Comunque un giornalista e sì, rappresentava se stesso, certo. Quindi, è diciamo, meno alieno come rispetto agli altri. È più singolare la presenza di Minzolini, che però è rivelatoria di una realtà che in realtà era quella. Minzolini era un leader della contestazione studentesca, nel suo liceo era il capo delle occupazioni e fa quello che organizza l'occupazione del liceo, poi dice chi porta il pallone, che è una minzolinata ante litteram, è perfettamente così. Invece Mughini fa Mughini. Mughini, fa quello che ha sempre fatto, non c'è molta sorpresa nel vedere Mughini. Poi andiamo avanti, probabilmente c'è altri personaggi che pur facendo se stessi riescono a fare un doppio salto mortale e rappresentare nel cinema la santificazione, la certificazione ormai del loro ruolo acquisito. Alcuni personaggi, come appunto Mike Buongiorno, inventano una categoria dell'umanità. Mike Buongiorno era Mike Buongiorno, quindi era indiscutibile, non era un personaggio che faceva Mike Buongiorno, un essere umano che rappresentava un personaggio. Quindi in un film in costume, che ambientato un film del genere B-movie, un trash, era un western comicarolo alla Trinità, infatti si chiama sempre in ambito appunto ecclesiastico, si chiama Provvidenza il protagonista ed è Thomas Millian, e appare Mike Buongiorno nella parte di se stesso, ma in maniera molto particolare. Però immaginatelo in divisa da combattente, da nordista, da colonnello nordista, insomma, quindi con i basettoni però anni 70, con la zazza che gli esce dietro il cappello, che fa il ruolo di Mike Buongiorno, per lui quello è, non era nulla di diverso. Colonnello Mike Goodmorning. Questo è il colonnello Mike Goodmorning, il più famoso criminologo dell'esercito federale degli Stati Uniti. Mi è stato riferito che qua ci sono due tipi che si spacciano per Provvidenza. Ora Provvidenza è l'unico bounty killer che conosca a memoria vita, morte, miracoli di tutti i banditi degli Stati Uniti forniti d'Italia. Siete disposti a sottoporvi ad una prova? Certo. In quale stato dell'Unione fu messa una taglia di $2,500 sul fuorilegge Jesse James? 1870. 1870? 1874, la risposta è esatta, bravissimo, formidabile, non ci sono dubbi, Provvidenza, voi ne sapete più dell'archivio criminale di New York, fatelo uscire. Congratulazioni, voi siete un vero campione. Gentlemen. Signore. La ringrazio, buongiorno. Qui l'elemento comico, l'elemento che giustificava la sua presenza, che Mike Buongiorno, con uno straniamento temporale radicale, continua a fare se stesso, la cartellina in mano, con i soliti capelli, le solite vasette, gli occhiali, anche se vestito da ufficiale nordista, nel carcere con i due tagliagole che deve giudicare, e fa il telequiz. Questo era l'elemento. Sì, si chiama Mike Goodmorning addirittura, insomma, questa trovata di grandissimo pregio, e arriva a far confrontare questi due. Thomas Millian, che tra l'altro in maniera inedita parla con la sua voce, con il suo accento cubano, non doppiato da Amendola in questa circostanza, però appunto è l'immutabilità del personaggio, cioè lo puoi vestire, è una sorta di Android che ripete eternamente il suo stesso copione. Di Mike Buongiorno dette la migliore rappresentazione e definizione Vittorio Sgarbi, disse: come un salame corallino, tutte le fette sono uguali una all'altra, la prima all'ultima. Infatti salame è sempre che poi reclamizzava, mi pare, appunto, in una serie, no, di insaccate erano romagnate, prosciutti, sì. Melog 2.0. Va via tu, Chanda, adesso noi passiamo all'azione. Tu filma tutto quello che puoi. Questi indigeni sono dei coglioni. Questa è la più grossa occasione che ci possa capitare. Il massacro degli Yakumo, assaliti da una tribù nemica. E noi lo gireremo dal vero. Era un genere molto particolare. Non si andava molto per il sottile. Era il genere cannibalico italiano. C'era un Luca Barbareschi, nel pieno diritto di esercitare la sua professione di attore al tempo, che però fa un'operazione che, se adesso la racconto alla radio, farà inorridire molti ascoltatori particolarmente sensibili. Ammazza veramente un maialino a fucilate, lo fa realmente. Qual era il contesto? Il film è del 1980, Sanzone. Si chiama Cannibal Holocaust di Ruggero Deodato, e racconta appunto una sorta di Blair Witch Project ante litteram, passò addirittura per snuff movie, ebbe problemi legali perché sembrava veramente uno snuff movie. Cioè, racconta questo studioso che scopre questo filmato fatto da quattro esploratori lungo il rio dell'Amazzoni, che sono stati uccisi, divorati dai cannibali, trova però i loro filmati e scopre com'è andata la vicenda, cioè i massacri che loro hanno perpetrato su questi cannibali, per poi essere giustiziati a loro volta. Ci sono impalamenti, ci sono ammazzamenti di animali, ci sono tartarughe scoperchiate, cervelli di scimmie. La famosa scena delle scimmie mangiate vive, che fu una cosa terribile. Mangiate vive, cioè problemi vari. E c'è un Barbareschi che, e per esempio lui, Barbareschi, poteva fare lo steward nella vita, è perfetto, uno di quelli, te l'immagini col giubbotto salvagente che indicano le uscite di sicurezza. È perfetto, però qui trova un coraggio che poi col tempo ha perso, cioè uccide giustizia il maiale senza appunto tremare un attimo, lo uccide in diretta dal vivo, e quindi c'è lo snuff sull'animale, insomma. Andiamo avanti con gli ascoltatori. Lorenzo, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a Tornicoletti, un abbraccio anche a Beppe. È sempre un piacere mettersi in macchina per ascoltarvi, e in riferimento ai film che insomma state citando, io volevo segnalare più che un cameo, proprio un ruolo di una rara incursione cinematografica di una cantante che è Ornella Vanoni, che fece un unico film, tra l'altro anche benissimo, perché fu scelta proprio per quel ruolo da Tognazzi nel film I Viaggiatori della Sera, tratto dal romanzo di Umberto Simonetta. E devo dire che tra le varie incursioni che insomma cinema e musica, tra questo rapporto, devo dire, Morandi, Celentano, che deriva dai musicarelli, quello della Vanoni fu veramente una cosa ispiratissima, perché ma poi fu un ruolo drammatico e fantastico. Racconto la storia: si immagina un futuro ipotetico che gli anziani vengono mandati in un bellissimo luogo, un albergo, dove possono soggiornare, stare bene e abbandonarsi anche a ciò che nella vita non sono abbandonati. La Vanoni a un certo punto lì con il marito Tognazzi si fa suavemente montare da dei ragazzi che stanno lì a posto per la bisogna, come se ormai non ci fosse più nessuna regola, se ci si avviasse verso l'ultima spiaggia. Infatti c'era una riffa in questo bellissimo albergo per anziani, ogni tanto ne sorteggiano qualcuno per una crociera, ma sapevano benissimo la crociera era l'eliminazione fisica. Giuseppe Sansone. Sì, fra il villaggio Valturre e il lager, una sorta di posto in cui estinguere gli anziani, un futuro sinistro, ma insomma molto, molto inquietante, molto profetico come film, anche se un po' sgangherato per certi aspetti, però era affascinante l'idea. Valeria era perfettamente in quel ruolo, però sì, era molto bravo. Non era anche a me, come giustamente l'ascoltatore, ma era un ruolo, non so se ne fece altri, non ricordo se ne fece altri, ma lei lo fece con intensità. Luca, buongiorno. Buongiorno, senta, io volevo invece, non so se è già stato citato, però mi ricordo anch'io di un Mike Buongiorno che interpreta sempre se stesso in un quiz televisivo un po' improbabile, in un film con Paolo Villaggio che credo fosse Sogni mostruosamente proibiti, in cui c'era una domanda appunto chilometrica su un spettatori presenti in un certo settore dello stadio, giocato in uno stadio credo spagnolo. Così, ecco. Devo dire i nomi di tutte le persone sedute in una curva e con anche i cognomi e i soprannomi. Sì, l'abbiamo mandato al tempo in cui parlammo di Fantozzi. Sì, anche lì però vede, ribadisce quello che abbiamo già detto. Mike Buongiorno, facciamo Mike Buongiorno. Una suppellettile. Non era un uomo che rappresentava un personaggio, era quello. Lui aveva inventato, ideato, immaginato e costruito su di sé una categoria dell'esistenza, che era Mike Buongiorno. Andiamo avanti. Non lasciatevi divorare anche voi dagli insetti notturni. Ora c'è Piritex, l'insetticida ai gas naturale. Piritex, e sai quello che spruzzi? Lo so, la vera difficoltà è ricordare al pubblico chi egli sia. Era Gianni Minà, non so se lo ricordate, era un notissimo giornalista della televisione, importantissimo. Invidiato da Troisi per la sua agenda che contemplava da Fidel Castro, insomma, sì, a chiunque, diciamo, a Cassius Clay. La gloria ombra della sua esistenza fu la famosa intervista a Ginocchioni a Fidel Castro che fece Gianni Minà, di cui tanto si parla. Poi dipende dal punto di vista, per alcuni fu un'importante testimonianza, per altri fu un'intervista senza domande particolarmente crude, ma vorrei vedere chiunque far domande crude a Fidel Castro in terra cubana senza rischiare la vita. Comunque, detto questo, in che film è? Questo è FFSS, un film corale di Arbore di quegli anni in cui furoreggiava tutta la sua banda, e qui c'è appunto Minà con la sua aria un po' da Tasso Bonario, se vuoi, avvolto da questi insetti giganteschi da Pasto Nudo di Cronenberg, che lui cerca di debellare, appunto non lasciarti divorare dagli insetti, era tutta quell'aria che prendeva un po' in giro gli spot dell'epoca, e lui riesce a creare questa... Diciamo, erano i primi esempi in cui si prendeva in giro la televisione, le sue ritualità. Si sta definendo la televisione come un sistema complesso, con delle costanti e tutto, e Arbore è stato fra i primi. Poi divenne la chiave fantastica dei suoi programmi televisivi, rappresentare il set orrifico, orripilante della televisione. E Minà, personaggio televisivo, allora era un giornalista rinomato, faceva dei programmi di divulgazione scientifica, letteraria, libraria, via dicendo. Minà allora era un po' l'Augias di oggi, ma molto molto di più forse, perché erano meno persone, capito? Una cosa a metà fra Piero Angela e non so bene, era della cifra televisiva di Gianni Minoli. Però ecco, era uno che merita un omaggio, secondo me, perché io l'altro giorno ho visto De Niro da Fazio, che è stata una scena deprimente, sembrava un anziano con la minima, appunto. Fazio era l'anziano. Sì, cioè il maggiordomo Fazio che intervistava l'anziano. Invece Minà a Blitz fece, andò sul set. Beh, diciamo, scusa, io non muoio di ammirazione e sindrome di Stendhal per Fazio, però rispetto all'intervista fatta da Morandi, era una signora intervista. Sì, insomma, è una gara al peggio, però se tu ricordi Gianni Minà andò sul set, c'era una volta in America, e riuscì a riprendere e a dare al pubblico televisivo un frammento del set di C'era una volta in America, cioè un film che da Mito Pogliesi pura, quella era una televisione o interviste clamorose. Sì, io vigliaccamente l'ho ricordato per l'unica cosa per cui lo prendo in giro con l'intervista a Fidel Castro, ma aveva sicuramente dei grossi meriti. E fu un personaggio che poi la televisione non so perché ha scansato, non si vede più in televisione. Ostracismi, forse. Sì, ma esistono sempre dei veti incrociati sulle persone. Grazie Giuseppe Sansonna, grazie al professore Alessandro Chiappini, nostro fornitore occulto di spezzoni di film innominabili, grazie Fabrizio Intonti e ci sentiamo domani. Dans le tourbillon de la vie, on a continué à tourner, tous les deux enlacés, tous les deux enlacés.